Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento anche oggi con l'Adico e ritroviamo il presidente Carlo Garofolini al telefono. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, oggi parliamo di un'ennesima vicenda di cui l'Associazione Difesa Consumatori si sta occupando ed è una notizia che riguarda uno studio dentistico di Milano. Sì, parliamo di bollette, parliamo di uno studio dentistico e parliamo soprattutto di una vicenda dove ha creato un disservizio notevole a un'attività commerciale, in quanto si è trovato per oltre 10 giorni senza la linea telefonica e per cui con tutti i disagi e i mancati guadagni che possiamo immaginare, oltretutto accordato da insulti di clienti che avevano bisogno e non riuscivano a raggiungere lo studio per le cure mediche o gli interventi programmati. Ecco, nello specifico cos'è successo? Si sono trovati senza telefono per quanto tempo? Praticamente lo studio, in seguito ai nostri uffici legali, si è trovato per effetto di un disservizio della Telecom senza linea telefonica per oltre 10 giorni. Chiaramente dopo i primi giorni in cui hanno ricevuto delle assicurazioni che la linea doveva essere ripristinata, si sono trovati invece un prolungamento del disservizio e in conseguenza un crollo del lavoro, ma un disagio nei rapporti con i propri utenti enorme, e questo ha portato loro a rivolgersi a noi perché non potevano più di questa situazione, quindi procedere a un risarcimento nei confronti della compagnia telefonica adeguato per quella che è una situazione di cui loro ne sono rimasti coinvolti. Ecco, ma com'è successa questa cosa? Praticamente un guasto ha determinato questo malfunzionamento che inizialmente doveva risolversi in pochi giorni, in realtà, come detto, si è prolungato per un tempo oltre a quello che potrebbe essere un congruo o ragionevole periodo. Certamente una vicenda non unica, ma che quando va a coinvolgere un'attività commerciale può sicuramente portare a dei disagi maggiori. Ma ricordiamo che ce ne sono molti anche in ufficio nostro e anche di semplici utenti che si sono trovati a non poter disporre di internet o di telefono per periodi anche di settimane, e che gli ascoltatori devono sapere che quando accadono questo genere di malfunzionamenti hanno diritto, insomma, a poter richiedere non solo il ripristino della linea ma anche un risarcimento equo. Ma per capire, se ci si rompe, che ne so, la nostra linea telefonica, in quanto tempo la proprietà dovrebbe rimettere a posto le cose? Allora, generalmente i periodi di ripristini vengono calcolati nei giorni feriali, questi dovrebbero essere in 2, massimo 3 giorni. Poi chiaramente ci sono dei periodi che variano a seconda, magari se ci sono dei subentri oppure delle variazioni di domicilio o di chiusure e ripristini di allacciamento di contatori. Però come generalmente è capitato allo studio che aveva una linea attiva e si è trovato improvvisamente senza linea per 10-15 giorni, qua il disagio doveva contenersi massimo in 1-2 giorni. Chiaramente situazioni così permettono all'utente di poter richiedere un indennizzo, in quanto possiamo immaginare il disagio, ma che comunque deve essere quantificato, anche perché comunque loro col telefono, ricordiamoci, lavorano. Certo, certo. E vabbè, quindi in questo caso l'Adico adesso interviene e vedremo che cosa riuscirete ad ottenere. Ci sono altre cose che vogliamo segnalare che possono capitare in questo caso? Sì, beh, certamente quando capitano queste cose l'utente deve sempre attivarsi subito nei confronti del gestore e pretendere che, insomma, il gestore intervenga in tempi celeri. Certamente se sostiene dei costi o ha del disagio, sarebbe opportuno anche riuscire a quantificare nel limite di quello che potrebbe essere un importo ragionevole. È bene che l'utente riesca sempre a quantificare quelli che sono dei disagi. Sì. Poi certamente nel periodo in cui uno rimane con il servizio interrotto è giusto che chieda almeno quello che è uno scopo del costo proporzionato alla bolletta per il periodo di mancato funzionamento del servizio, perché se uno paga per esempio 70 euro al mese e rimane per 15 giorni senza servizio, è giusto che almeno metà della bolletta non venga corrisposto. Giusto. E soprattutto se deve sostenere dei costi o ha dei disagi, anche questi si possono quantificare in un forfè e dopo chiedere un equo risarcimento. E vabbè, quindi in questo può essere molto d'aiuto proprio l'associazione Difesa Consumatori. Voi sapete, cari ascoltatori, che c'è il sito www.associazionedifesaconsumatori.it e lì trovate poi anche i contatti per chiamare l'Adico. Grazie al presidente Carlo Garofolini per averci raccontato questa ennesima esperienza, questo caso che state seguendo. Ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, saluto tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.